Monica vuole tutto lo stesso, basta che non sia solo sesso. Monica veste come mi pare, solo per farti immaginare. Monica ascolta quello che dico, meglio ragazzo come amico. Monica ride, ride quando la guardi, poi dice andiamo, adesso è tardi. Monica no, Monica no, Monica no. Monica è triste se non le parli, ma si ricarica di sguardi. E se si riprende fa la contenta, solo che dopo non sta attenta. Monica tenta, siamo biscotti. Monica tenta che ti scotti. Monica sveglia, a volte imbroglia, quando ti dice non ho più voglia. Monica no, Monica no, Monica no. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida. Monica no, Monica no, Monica no, Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida, ah, na, na, na, na, na, na. Monica è lucida.